Chiesa con i suoi collaboratori, si comincia. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Allora, prima di tutto quanto, Pier, consentimi di, insomma, di mandare un pensiero ad Annalita Sidotti. Assolutamente. Piccola immensa siciliana della marcia, europea nel 97, mondiale nel 98, non abita più su questa terra dopo 44 anni, e quindi a lei va il primo pensiero. E poi adesso vi raccontiamo che io e Pierluigi Pardo siamo qui a Bologna con Giorgio De Luca, il nostro autore, Filippo Aureggio in regia, c'è Davide Ciocia a Milano, c'è Gianmarco Ferronato con Lorenzo Nespoli. Siamo a Autopromotech, fammelo leggere bene. Autopromotech. 26esima biennale internazionale delle attrezzature dell'aftermarket automobilistico. Omo Faber, fortune sue, eh? Sì, c'entra anche con in cerca di spinterogeni. Allegri, bisogno con Allegri. Spinterogeni, no? Nuovo. Io ho bisogno, no, io ho bisogno, no, di una frizione. Che ne so, ho bisogno di un no, non c'ho la frizione, c'ho il cambio automatico. E allora la frizione ti serve. Non mi serve, no, ho bisogno, non lo so. Se ci volete portare qualcosa, so. Sì, senti degli interni in finta similpelle, non lo so. Io vorrei. Ma perché, oh, finalmente si è messo nelle cuffie De Luca. Sembra Von Karajan, ti giuro. Quando sta per lanciare l'inizio, sì, che c'è la clip, sta lì. Dirige l'orchestra. Dirige l'orchestra. Poi quando mi facendo. Adesso. Dai. Io vorrei il coprivolante in pelo. Se qualcuno ce l'ha, bello, vuoi bello, che tu? Bello. Oppure il coso lì, quella specie di foderina che si mette, quella con tutti, come si chiama? Con tutti i pallini. Sì. Ce l'aveva un taxi a Kiev l'altro giorno. Un momento, sì, che è molto vintage. Vabbè, comunque. Anyway, go on, get it back. Da dove partiamo? Partiamo da dove sei arrivato da ieri. Ti abbiamo lasciato sul treno per Yuma. Ieri l'ho vista, fra l'altro, con degli amici che mi hanno invitato. L'ho vista in Monte Mario, praticamente nella tribuna normale. Devo dire, è stato molto divertente. Beh, doppio palo di Djordjevic, gol di Matri, aumentano gli indizi. Doppio, diciamo, palo di Djordjevic, stavo prendendo il caffè, ti dico, però l'ho visto. Ero entrato un attimo a prendere il caffè, l'ho visto e beh, aumentano gli indizi. È stata una partita equilibrata, una partita che poteva girare da una parte e dall'altra. Il fatto che l'abbia vinta la Juve può essere considerata una semplice casualità, forse non lo è. Insomma, è vero pure che c'era stata la palla gol di Matri col fuorigioco di millimetri, ammesso che ci fosse. Forse non c'era, ma insomma, siamo veramente al limite, a tre dalla fine. Sì, forse, forse alla fine la Juve è più squadra, si può arrivare a questa conclusione. Poi chiaramente la Lazio sta lì a domandarsi su quel doppio palo, che è un evento, no? Sono le stelle. Però partita molto equilibrata, molto equilibrata. Lazio con qualche assenza e qualche giocatore acciaccato, e Juve senza Marchisi e Morata, insomma. È un ulteriore segnale, secondo me, di tenuta della Juve. Certo che lo è. 800-24-00-24. E oggi vogliamo i sostenitori del triplete, che siano gufi oppure no, vogliamo gli ottimisti che vedono in tutto questo dei segnali positivi, ma vogliamo anche tutti gli altri, i laziali, i romanisti, i napoletani che ieri hanno goduto al momento il tweet, vabbè, l'ha fatto pure tutti i convocati. Chi è che fa i tweet di tutti i convocati ieri? Se a De Luca. Che, perché ieri a un certo punto, allo scadere del 90esimo, c'è stato un tweet gettonatissimo, l'ha fatto in 150, parlando di spostamento al derby a quel punto a martedì, mercoledì o a Ferragosto. È stato il buon tempore, il signor De Luca. Invece il Napoli gioca sabato, però devo dire che sia per il Napoli che per la Roma ieri è stata un po' la partita perfetta, perché comunque è andata supplementare, si sono stancati, sì. Anche se penso che a questo punto della stagione è più il discorso mentale che il discorso fisico. Sì, no, adesso alla Juventus servono questi 17 giorni per mantenere la condizione fisica. Mi sembra che stia molto bene anche fisicamente, sì. La Juventus, devo dire, salvo alcune eccezioni che sono quelle da ritrovare, non sta benissimo Pogba. Ti posso dire, adesso al di là del fatto che Berlino non è un dettaglio, ma già Allegri ha vinto 2 trofei, insomma, più arrivare alla finale, una stagione per la Juve trionfale come prospettive per il futuro, il famoso market pool di cui parla il nostro amico Beninazzo, cioè la quantità pool di soldi da record che quest'anno la Juve si porta a casa per la Champions League, della Juventus. È veramente per la Juve è un anno veramente pazzesco, al di là di Berlino, ma è chiaro, Berlino non è un dettaglio e se dovesse succedere quella cosa sarebbe leggenda, ma in ogni caso è un anno di rivoluzione in positivo per questa squadra. Certamente, e il market pool fa sì che il conto, che l'estratto conto della Juventus sia quello di un piccolo stato, ma neanche tanto piccolo. Neanche tanto piccolo, di uno stato ormai importante a livello europeo. Con chi ha il telefono De Luca? Non lo so, credo con Milano. Con Milano, di Milano. Vabbè, sentiamo. È professionale sto ragazzo, Sì, fin troppo. Sa pure il traffico. Traffico. Facciamo traffico. Torniamo subito. Tutti convocati. Convocati. Il calcio è fatto di episodi e noi avevamo avuto prima del palo loro 2 o 3 situazioni favorevoli, non siamo riusciti a sfruttarle, però dei ragazzi sono molto bravi a stare in partita, le hanno giocato tantissime partite, giocare su 3 fronti non è semplice, è una dimostrazione che è un gruppo straordinario, che sta bene fisicamente, e ora abbiamo un po' di tempo per preparare la finale di Champions e vedremo se riusciremo a cullare questo sogno che può diventare realtà. Innanzitutto devo dire che sono completamente d'accordo con quello che ha detto Allegri, è stata una grande partita tra 2 squadre che hanno giocato a calcio, tra 2 squadre che hanno provato a superarsi, noi abbiamo lottato centimetro su centimetro giocando all'altezza di una squadra molto forte e poi purtroppo i centimetri ci hanno impedito di andare in vantaggio quando forse era il momento decisivo, anzi è stato il momento decisivo della gara. Allora, abbiamo sentito Allegri e Pioli, li avrete riconosciuti dal diverso timbro di voce. Sì. Pierluigi Pardo, siamo a Bologna, Autopromotec. Sì, fra l'altro ci mi scrivono, che prendi un alettone. Un alettone? Ci sono gli alettoni. Ci sono qui. Gli alettoni? Ma che servono gli alettoni? Ah, non so, io volare, voglio... l'Aquila Olimpia, che cos'è l'alettone? A che serve? Non lo so. Io vorrei sempre il coprivolante di pelo, ma comunque vediamo se arriva. Vabbè, adesso lo trovo. Da quale 3:30. Siamo a Bologna, non possiamo che... a casa sua... Marco Di Vaio. Marco Di Vaio, come stai? Club bene manager voi? Del Bologna. Bene. Noi siamo bene, bene. Ma hai bene. Imparato un po' di bolognese in tutti questi anni? No. Poco, purtroppo. Poco, senti, 4 la mia umanità rimane lì. è quella di Pardo. Senti, quale scusa andrai ad addurre per non venire lunedì a Tikitaka? Vediamo, 26esimo tentativo al dentista. Nessuna scusa, ci vorrei venire da protagonista in Serie A, Luigi. Lo so. Una trasmissione di quel livello e non mi posso presentare. Ma tu fai vorrei storia arrivare con una promozione in tasca. Vabbè, ok. Vabbè, Marco, adesso obiezione ci sono i playoff, no? Ci sono, dopo essere stati virtualmente in Serie A praticamente per 4 mesi, poi cosa è successo dopo i 4 mesi? Poi piano piano abbiamo perso un po' di colpi, abbiamo perso un po' di opportunità, soprattutto perché abbiamo avuto tante opportunità, soprattutto in casa. Per allungare, per fare forse quell'allungo decisivo, la squadra non c'è riuscita e questo l'abbiamo subito un po'. Poi abbiamo vissuto un momento un po' più difficile e nell'ultima parte del campionato, purtroppo, come hai detto te, per 4 mesi siamo stati 3 mesi, siamo stati secondi da soli, avendo tante opportunità per poter fare il salto definitivo, invece ci troviamo in questo momento a parlare di playoff, che comunque sono un'opportunità per andare su. Io la ritengo un'opportunità, e un'opportunità anche importante. Dopo 41 partite, domani giocheremo la 42esima, poi dopo ci saranno i playoff, sicuramente non sarà semplice a livello fisico, si giocherà di sera, che è un buon vantaggio per tutti quanti, e secondo me chi ne ha più a livello mentale può fare la differenza. Sai cosa è successo a Pardo? Che dopo quei 3 mesi è arrivato il lotitismo. Carpi a Frosinone. È arrivata la battuta su Carpi e taratà, vedi com'è, volano i playoff. Ci ha ammazzato a tutti, a noi ci ha ammazzato. L'ha ammazzato tutti. Psicologicamente ha dato una carica in più agli altri, perché da lì sono partiti, hanno fatto il cambio di mano. Senti, oggi sulla Gazzetta c'è un pezzo nel quale si parla di allarme attacco, di un'incidenza, in qualche modo i numeri lo confermano, da grande attaccante, senza colpevolizzare questo o quell'altro, però insomma c'è un problema di rifiuto del gol. Purtroppo parlano, i numeri parlano di questo, soprattutto purtroppo perché parlano di giocatori che fino a per tutta la loro carriera hanno sempre fatto gol. Dunque sono arrivati qua e chi per un motivo, chi per un altro, stanno stentando, stanno facendo fatica a trovare la continuità nel fare gol, no? Quello ci è mancato parecchio, purtroppo, perché alla fine se ne va a prendere il nome della mano, non puoi pensare di andare su senza qualcuno che comunque ti faccia le differenze a livello realizzativo, e soprattutto vedendo quello che è successo alla fine. Dunque ci è mancato proprio questo, però siamo convinti, io sono convintissimo, lo dico da tempo, che in questo momento contano i gol decisivi, siccome loro sono giocatori importanti, i gol li hanno sempre fatti. In questo momento, quando arrivi ai playoff, un gol tipo Mancosu, scusa se vado sul personalismo, però Mancosu insomma è uno che è stato capocannoniere, che ha fatto anche una prima parte di stagione a Trapani molto prolifica. Poi c'è Bova Acquafresca, che era comunque uno dei giovani più interessanti del calcio italiano, solo 3 gol. Mancosu secondo me ha sofferto il cambio, perché è più una cosa psicologica quella di Matteo, la prima vera grande piazza che sta giocando, che si sta confrontando, e ha avuto delle difficoltà all'inizio perché arrivava da un lungo infortunio a Trapani, era appena rientrato quando l'abbiamo preso noi dal Trapani, e dopo 2 mesi di stop, e a questo arrivare a sentire queste pressioni secondo me ha fatto fatica a gestirle, però ragazzo che ha qualità, ragazzo che ha fatto gol nelle ultime 2 stagioni con regolarità, dunque siamo convinti di avere in casa con lui, con Daniele Cacia, che ha fatto più di 100 gol in Serie B, con Sanzone, che l'ultima volta che ha fatto la Serie B ha fatto 22 gol, dunque gente che comunque il gol c'è da dentro, lo stesso Robert. E sono convinto che comunque, io come dico sempre, lo dicevo anche, mi rimane a mente, anche per quanto riguardava, quando io anch'io passavo momenti di difficoltà, se stai per pedalare, andare in bicicletta, puoi non andarci anche per 10 anni, però quando ti metti sopra, sai come si fa. Senti Marco, invece a Juventus e Champions League, a questo punto Juventus e segni del destino che abbiamo visto anche ieri sera, per chi voleva vederli. Certo, no, hanno fatto, ti dico la verità, mi è dispiaciuto per Stefano tanto ieri, per Stefano Pioli, perché secondo me l'ho avuto, era una grande opportunità per lui, è un bravissimo allenatore, però la Juventus conferma anche in questo momento, anche dopo la partita di Milano, dove ha dimostrato ancora di più la sua forza andando a vincere la partita con le seconde 10. Fisicamente e mentalmente stanno a un livello incredibile, e dunque niente è precluso in questo momento. Sanno che vanno a giocare con la squadra più forte d'Europa, la squadra che sta facendo grandissime cose, che davanti hanno grandissimi mostri sacri, e sanno che per vincere quella Coppa ci sarà bisogno anche di un pizzico di fortuna, quella che hanno avuto magari ieri col doppio palo di Djordjevic, perché sai che se vai a incontrare quella gente lì, sicuramente può essere anche la difesa migliore del mondo, ma qualcosa che comunque te la creano, dunque di sperare che comunque loro siano giornano. Però se arrivano alla grande, meglio di così era impossibile. Tatticamente che partita bisogna fare? Calci piazzati? Tatticamente sì, sicuramente sfruttare tanto quello, perché loro secondo me soffrono, e soprattutto perché fisicamente la Juve secondo me è dominante sotto questo punto di vista, dunque cercare di sfruttare nel miglior modo possibile. E il resto avere la forza di ribattere, di crederci sempre, perché subire un'azione, due azioni o 20 minuti che per Barcellona li possa mettere sotto è normale, però avere la forza, secondo me la realtà di forza non è come ti difendi, ma come riparti, secondo me come sei propositivo, sei sempre alla ricerca comunque di riesci comunque a mettergli paura, non farti buttare contro il muro. Sì. Marco, un'ultima cosa sì. Invece la Lazio e il derby, la Lazio abbiamo visto molto bene anche ieri sera, secondo me sta meglio della Roma. Sì, ha fatto una grande partita, soprattutto il primo tempo è stato di altissima intensità. È una squadra che sta bene, fisicamente ci arriva bene anche lei a questa partita, ci arrivano in corsa slanciati perché hanno fatto molto molto bene nella seconda parte del campionato, e secondo me però è un derby dove partono alla pari comunque, perché questo, la partita di ieri secondo me ha livellato un po' anche a livello mentale, sa che comunque la Lazio ha perso un obiettivo e sa che rimane l'altro. Sì. Che era inaspettata all'inizio stagione, ma che adesso tutti ci credono, dunque non sarà semplice. A me non sarà un'avventura. Bocca al lupo, Marco, grazie. Per me non sarà un bel derby. Ma poi c'è il playoff. Bocca al lupo, Marco. Ciao Marco Di Vaio. Siamo su Periscope, siamo tutti su Periscope, siamo tutti collegati su Periscope. Cosa ci facciamo su Periscope? C'è uno che mi scrive: sono dimagrito. Grazie, sei un fratello. Ma... Giuseppe da Torino, buongiorno. Buongiorno, come va? Come va? Come dice Paolo? 800-24-00-24, come va? Benissimo. Grande Paolo. Allora, io sono juventino, contentissimo di tutto. Devo innanzitutto chiedere scusa ad Allegri, come tanti di noi. E poi volevo sottolineare solo una cosa. Ieri è stata una partita bellissima da tutte e due le squadre. Onore alla Lazio. Ed è stato bello anche il clima sugli spalti e vedere che la Juve durante la premiazione della Lazio ha applaudito, ha fatto il carosello. De Laurentiis deve guardare e imparare, ricordandoci di qualche anno fa. Quindi niente, deve essere uno spot per il calcio, perché secondo me è stata una bella atmosfera, dovrebbe essere sempre così. Sì, è stata anche, devo dirlo, una partita non polemica. Non sempre le partite vanno così lisce, non lo dico non perché questo tolga nulla. Io ieri ero allo stadio e devo dire che anch'io ho avuto questa sensazione, era pieno di bambini con le maglie di Klose, di Platini, di Sivori. Veramente è stata un'atmosfera bellissima ieri, e quindi sono perfettamente d'accordo. C'è anche da dire, secondo me, che la congiunzione astrale della serata è stata positiva da questo punto di vista, perché non ci sono state grandi polemiche, non ci sono stati grandi problemi, quindi, però, per carità, giusto sottolinearlo, insomma, avevamo bisogno certamente di una finale di Coppa Italia di questo tipo dopo quella tremenda dell'anno scorso. Ne approfitto per ricordarci che un anno fa è successa una cosa terribile, che ovviamente al di là delle inchieste giudiziarie che capiremo, delle responsabilità che verranno, però comunque ha portato alla scomparsa di un ragazzo che credo debba essere ricordato come tutte le vittime di qualsiasi qualsiasi squadra, da De Falchi a Paparelli, all'Aisel, a Superga, fra l'altro fra pochi giorni ricorderemo i 30 anni dell'Aisel, quindi assolutamente non, nessuno deve morire in uno stadio, è banale dirlo, ieri è stata veramente una bella serata, padri con i bambini, una marea di bambini c'erano, stadio pieno, no, bello, stadio pieno, stadio sì, pieno, cornice, un piccolo, cornice, piccolo cordone di sicurezza, cornice, però, cornice meravigliosa per una partita che è stata all'altezza. Ci fermiamo per la borsa, poi torniamo a 800 24 00 24, siete sempre tutti convocati anche qui da Bologna, eh? Salto i nostri inviati scatenati, seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Comincia Tutti convocati. Non c'è dubbio che il divario tra questi fenomeni vengono denunziati, che periodicamente affiorano, e la passione con cui tanta gente segue il calcio fa indignare davvero, e quindi per questo occorre rapidità e severità, e occorre far di tutto perché il calcio sia costantemente davvero uno sport in maniera, vissuto in maniera autentica. Questo era il Presidente della Repubblica. Il numero di telefono 800 24 00 24. Vi aspettiamo, siamo perché in oggi fiera. Siamo per mettere il record oggi. Mi dovete chiamare in grandissimo numero 800. Anche per fare un sacco di polemica. 24 00 24. La Juventus derubata perché non era in fuori gioco il gol di Matri. Il Presidente dice una cosa semplice ma fondamentale. Cioè, gli scandali in qualsiasi settore della vita pubblica fanno sempre schifo, ma gli scandali su una cosa come il calcio, cioè una cosa sulla quale con tutto rispetto non è che stai vendendo viti, bulloni, spinterogeni, valettoni, non si arrabbino questi qui di autopromotec, una cosa che riguarda veramente la passione della gente che spende soldi, va a fare trasferte, sta bene o sta male a seconda del risultato della squadra. Ecco, gli scandali di una roba del genere sono ancora più vergognosi secondo me, proprio perché è una sfera di sentimenti, quindi è proprio come tradire, ma non tradire come stai pensando tu, gente, che sei un maniaco. Crosetti, dica! Signor Crosetti! Eccolo qua, ma che bel momento! Ciao ragazzi! Siamo in esterna, siamo in fiera, al Miss X. No, non è la Mantova, Giuseppe la Messina. Non siamo al Miss X, no. No, però a breve noi siamo laici aperti, quindi potremmo andare anche lì. Come l'hai vista, Cross? Beh, l'ho vista. I vampiri. Ho visto la Juve molto, molto bene, anche quando può non essere vista benissimo, nel senso che la Juve ieri sera non è stata la padrona assoluta dell'avversario e della partita, ma è stata come sempre padrona assoluta di se stessa e anche del proprio destino, perché quello comunque bisogna che spiri dietro le spalle, no? Che soffi favorevolmente come i venti omerici, e la Juve ha una grandissima forza e tutte le qualità che le abbiamo riconosciute, che possiamo ripetere all'infinito, ma credo abbia anche un vento favorevole che aiuta gli audaci e i coraggiosi e che quando ieri sera Djorkaeff ha preso quel doppio palo ha chiaramente fatto capire che gli dèi, anche gli dèi sono juventini, peraltro è una teoria che dura da molto tempo, cioè che gli dèi facciano quasi tutto il tifo per la Juve perché sono dei buon gustai e gli dèi vogliono vincere e amano i forti, no? E quindi qualche volta sì, sono anche invidiosi dei forti. Ma quindi, hai fatto, insomma, un bel giro di parole per dire che la Juventus ha un gran bel culo. È una stagione che io ho capito che la Juve vincerà la Champions League a Berlino. Ecco, esagero. Attenzione, ho capito in quel momento è il doppio palo della Champions. Ma fantastico. Alla fine siamo sempre lì, no? Adesso, per esempio, Cross era testimone oculare l'altro giorno della discussione Mughini-Cassano. Sì. Che poi sono d'accordo, cioè non si stanno simpatici, ma sono d'accordo sul concetto, nel senso che la famosa espressione chiamali soldatini, chiamali generali, chiamala come ti pare, però la forza della Juve è proprio quella, è il fatto che è inquadrata, che è tosta, che non molla mai, che sta in campo sempre con questo tipo di atteggiamento, e quindi che ti mette anche un po' di soggezione. Ma certo, perché il livello di organizzazione, anche se abbiamo mille volte sottolineato che Allegri certamente è un po' più morbido rispetto al passato, ma la forza è quella lì, e alla fine torniamo sempre a quell'elemento lì. Anche nelle giornate in cui la Juve non è brillantissima, non è straripante dal punto di vista tecnico, però è sempre un avversario che vende cara la pelle perché ha quel tipo di disciplina che poi può star simpatica o può star antipatica a seconda che venga vista da dentro o da fuori, però sicuramente poi porta dei successi. Chiamala se vuoi anche mentalità vincente. Questo lo dice la storia, ma certo. Chiamala certo. Mentalità vincente. Disciplina. Allora, ordine e disciplina. Ordine e disciplina a tutti quanti. Allora adesso facciamo... facciamo, diamo a Franco da Mantova, Giuseppe da provincia di Messina, la possibilità di parlare, eventualmente di litigare con Pard e con Crosetti. Vai, Franco. Grazie, buona giornata. Io sono un interista e tutto l'anno che sto gufando contro la Juventus ne va bene in un modo talmente gufando, oggi dico: se vince la Coppa dei Campioni sarò contento. Sì, sì. Perché è l'unica squadra che veramente, a parte Imoggi, a parte di qua, ma veramente sta giocando al calcio. Cioè, non si può dire che non sta giocando. Contro il Real Madrid non ha mollato. Cioè, ieri sera ha perso, continuava, è sfortunata. Quando l'Inter ha fatto il tripete era sfortunata, ma è fortunata. E in questo momento io gli auguro soltanto, da interista, che la Juventus vinca la Coppa dei Campioni. Sì, lo dico con cuore, non con rabbia, No, ci credo. No, stamattina mi è arrivata anche una mail con un ascoltatore che scriveva: la Juventus il triplete l'ha già fatto, campionato, Coppa Italia e la partita a San Siro che ha buttato fuori l'Inter da ogni speranza di Europa League. Questo era il senso del messaggio. Capito, Cross? La Juventus sta conquistando perfino i gufi. Non c'è più religione. Che è il primo nemico dei gufi, è il nemico numero uno di tutti i gufi mondiali. E con questo amico ascoltatore è un gufo al cubo, perché addirittura ci ha fatto credere, e noi gli crediamo naturalmente, che sia sincera ammirazione. In realtà c'è una gran parte di Italia che sta gufando, che sta rosicando, ma è normale, è la legge dello sport. Però non si può non riconoscere davvero che la Juve ha così tante cose che anche quelli che ce l'hanno con lei devono riconoscerle queste cose, altrimenti sarebbero non dei gufi ma dei ciechi. Guarda, io ho visto un po' di commenti dopo Madrid sui social network, e secondo me questa componente qui di gente che comunque riconosce il valore e magari lo considera un'ispirazione per la propria squadra è una componente che secondo me c'è nel paese. Non voglio fare Mannheimer, però insomma poi è ovvio che l'ascoltatore probabilmente di fronte a un gol di Messi al 90esimo nella finale di Champions godrebbe come un riccio, però io credo che fosse sincero nelle sue parole, nel senso che comunque questa squadra sta diventando un punto di riferimento. Siamo ormai, vediamo talmente tanto calcio italiano e internazionale, vediamo i grandi giocatori, quando vedi una squadra che comunque interpreta con questa forza, con questa decisione, con questa mentalità, ma che fai? Gli stringi la mano, ma proprio a prescindere, insomma. C'è un altro ascoltatore in linea, però mi è saltato il monitor e quindi si presenti lei che è in linea da Messina. Missinese. Da Capo d'Orlando. Dove si chiama? Perché dalla qui non vedo niente. Come si chiama? Giuseppe, perfetto. Dica, allora, prego. Scusa Max, il 6 giugno spero di dire ancora scusa Max. Ero quello che a luglio contestava Max. Non lo volevo sulla panchina della Juve e adesso devo dire, come tutti i juventini, scusa Max. Lo devo dire. Questo. Poi, è certo, seconda cosa, giusto dirlo, sì. Seconda cosa, non è Allegri, non è Conte, non è Tevez, non è nessuno di questi l'autore di tutti questi successi della Juve, ma è Beppe Marotta e il suo vice, di cui non mi ricordo il nome in questo momento, aiutatemi. Mm. Chi è il vice di Marotta? Di Marotta. Vabbè, in ogni caso. Adriano Galliani. Grazie Marotta e grazie Galliani. Ci avete fatto vincere tutto. Grazie. Vabbè. Anche qui la componente dell'autocritica è perché Galliani ha dato Pirlo e Allegri alla Juventus. Comunque il partito di quelli che chiedono scusa ad Allegri credo che sia, insomma, una sorta di maggioranza ormai. Ma vedi, Italia. Io penso che anche qui, al di là di Allegri, che se ne è fatta ampiamente una ragione, insomma, di queste delle fischi dell'inizio della stagione scorsa, l'insegnamento è sul valore di certe etichette, che è molto relativo, no? Allegri aveva questa etichetta, improvvisamente era diventato uno sfigato, è diventato uno che non sapeva allenare. Gli anni anni di Sassuolo, di Cagliari, il primo scudetto col Milan, erano completamente evaporati per una stagione e mezzo non di grande livello al Milan, con mille problemi. E vedi come poi il calcio, appunto, vabbè, lo sai, no? È materia liquida. E quindi questo secondo me è l'insegnamento. La stessa cosa Luis Enrique si vedeva che aveva delle qualità. Poi la Roma ha fallito sicuramente, non aveva capito la mentalità del calcio italiano per certe cose, però insomma io penso che l'insegnamento sia questo, cioè che tante volte le etichette sono etichette fallaci. C'è, sì, il signor Marcello, aspetta, c'è il traffico. No, Carole Rocca, andiamo, aspetta, a sapere, è ultimissimo. Poi abbiamo ancora Maurizio Crosetti, ancora gli ascoltatori, state lì tutti quanti. No, ora vedo, perché stasera sono abbastanza stanco, sinceramente. Dovrò decidere se twittare. Non vorrei twittare una cazzata, quindi. Tutti convocati. Tutti convocati. Allora, io volevo, prima di salutare Maurizio Crosetti, volevo domandargli una cosa che non riguarda la Juventus. Maurizio, ci credi? Ci credi ad Ancelotti al Milan? Emissari del Milan a Madrid a parlare con Carlo Ancelotti, tu ci credi o no? Sì, nel senso che leggo da fonti informate che questo contatto c'è, e Ancelotti ha sempre detto che la Roma, il Milan e eventualmente la nazionale potevano essere tra ipotesi per il suo futuro, perché no? È chiaro che poi, più che ad Ancelotti, più che a questa voce, bisognerebbe riuscire a credere al Milan e a quello che il Milan può diventare, se ne venderà un pezzo, tutto, se resta Berlusconi, con quali soldi, però insomma su Ancelotti non sbaglierebbero la scelta. Dopo due dilettanti troverebbero un grande allenatore, non c'è dubbio. Sì, è da vedere se Ancelotti non sì, sbaglierebbe la scelta con, lui, con l'ingaggio che ha, le prospettive, le richieste, le abitudini, è abituato molto bene e ha abituato molto bene le squadre che ha allenato, perché lui ha vinto tantissimo in questi anni con grandi squadre. Uno potrebbe dire, ma chi te lo fa fare? Ecco, questa domanda non ho risposta, non ho ben capito chi glielo farebbe fare ad Ancelotti, però poi dopodiché la sua storia è molto rossonera e vatte la pesca, può anche darsi che decida così. Io sinceramente su andrei dall'altra parte, però vedremo. Sì, sì. A Barcellona magari. A Barcellona sarebbe. C'è anche questa ipotesi, sì, dopodiché non si capisce bene perché Luis Enrique, ma lui sta nicchiando parecchio, no? Fa un po' il Ma Luis Enrique, se dovesse succedere quella cosa, che ovviamente non auguro a Massimiliano Allegri, ma se dovesse succedere quella cosa lì, Luis Enrique che rimane a fare? Che altro può vincere? Sì, no, cioè voglio dire, è come nei giochi elettronici, quando superi un certo livello hai bisogno di una sfida successiva, no? Forse sto barando. Però... Luigi, è vero questo, ma l'ultimo allenatore che ha fatto quel discorso credendo di essere arrivato all'ultimo livello del videogioco si chiama Conte, certo. E poi se n'è andato, secondo me si è mangiato la console, il disco, il monitor. Beh, però scusami, non era arrivato all'ultimo livello del videogioco. Lui credeva di non poter andare più su di così. Guardiola secondo me è un esempio di quel tipo lì, no? Nel senso che comunque a Barcellona ha vinto tutto, ha cercato un'altra sfida. Tante volte, per esempio anche su Messi, è stato fatto spesso questo ragionamento, no? Messi in un'altra squadra, e credo che insomma il concetto della sfida, del provare un ambiente di tipo diverso, possa essere stimolante. Poi Lucio, inteso come Luis Enrique, è un personaggio curioso, curioso in senso che ha curiosità, è un triatleta, è uno che potrebbe anche prendersi un anno sabbatico, cioè è matto, ma in senso positivo da questo punto di vista. Non è, sì, anche secondo me non resterà a Barcellona, io non lo vedo come l'allenatore professionista che per 30 anni farà il mister, secondo me è uno che farà cose diverse. Farà cose diverse. Grazie Maurizio. Ciao. Ciao Mau. Allora, ciao. Mentre il signor De Luca tenta disperatamente di riavviare il computer, diamo il benvenuto al signor Marcello dalla provincia di Rimini. Abbiamo il gobbo in televisione, no? Il cartello dove è scritto a penna, in questo caso, dove sono i nomi. Marcello, vai Marcello. Marcello. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. Come va? Devo chiedere scusa a Max, quindi si capisce Juventino, purtroppo. Niente, però io... Ma ce n'è uno che non vuole chiedere scusa ad Allegri, uno che ci chiami, 800 24 00 24, che rimane sulle sue posizioni, diciamo, ma Allegri non provo, mi piace. Provo a fare un esperimento, mando un messaggio a Allegri, dico, questi chiedono tutti scusa, vediamo se mi risponde. Vai Marcello. No, volevo chiedervi un vostro parere. Io ho visto una cosa bellissima alla fine della partita, che si vede molto molto di rado, o forse quando giocano le squadre straniere magari si vedrà un po' di più. I giocatori della Juve che davano le pacche e rincuoravano i giocatori della Lazio che hanno fatto una grandissima partita, e il pubblico della Juve che batteva le mani. Questo i giornalisti della Rai l'hanno evidenziato pochissimo, e invece io credo che il calcio dovrebbe iniziare a cambiare da queste robe qua. Voi cosa ne pensate? Io spero che Pardo lo dica anche a Tiki Taka alla prossima puntata. Ma sono scene da che sono così inedite, non è che tutte le volte si prendono a calci in faccia. Ieri è stata una serata bellissima, al di là ovviamente poi del fatto che c'è chi ha gioito e chi ha gioito meno, però è stata una serata bellissima, è stata una finale bella, corretta in campo, grandi tifoserie, bellissime coreografie, nessun problema di ordine pubblico, rispetto per le istituzioni, il presidente anche un po' stanco perché per i supplementari, però insomma mi sembra che sia stata una serata perfetta. Stamattina c'è stato per esempio un post su Facebook di Ledesma che rincuorava Cataldi, che insomma, che sia una cosa molto bella, insomma mi pare che tutto, sì, tutto abbia funzionato. Non è la prima volta che succede, esatto, sinceramente è la prima volta, però fai bene ad ogni dopo benissimo partita l'ascoltatore a sottolinearlo. Io credo che in generale ci sia, ma questo riguarda il giornalismo, mi ci metto anch'io, ci sia una ovvia maggiore sensibilità al male piuttosto che al bene, cioè chiaramente la bomba carta che scoppia o l'assalto al pullman, ci facciamo le trasmissioni come è giusto che sia, non possiamo non parlarne, ne parliamo perché ovviamente ne parlano tutti e perché bisogna inevitabilmente occuparsi di ciò che interessa alla gente. Però di fair play che dovrebbero essere la norma, dovrebbero essere la norma, rimaniamo per sorpresi. Però per dire, quella partita lì mi ricordo un abbraccio fra Pepe e Padelli a un certo punto della partita, nel pieno della trans agonistica, dopo il palo colpito da Pepe, e l'abbiamo sottolineato. Quindi secondo me l'ascoltatore ha ragione. C'è Luciano da Napoli, parente di De Luca. Luciano, buongiorno. Okay. Grazie per avermi convocato. Come va? Sei per Auriemma o per Alvino, Luciano? No, sei per Benitez o per Mihajlovic? Sono per Alvino, veramente, molto più pagato, meno. Mi rappresenta di più Alvino. Anche se Auriemma è simpaticissimo. E allora niente, io volevo fare tre considerazioni. La prima, non ringrazio il signor Allegri per la considerazione, che ha vinto una squadra fortissima che potevo allenare anche io, visto la mediocrità del campionato italiano. Ha fatto una una Coppa UEFA, perché comunque incontrato fino al Real Madrid squadre completamente in disarmo, tipo Borussia Dortmund, Monaco, che è un Chievo italiano. Stiamo esagerando. Alla fine volevo dire questo. Io ricordo che all'83 gita scolastica del diploma a Vienna, andammo a vedere Austria Vienna Real Madrid, c'era uno striscione in italiano: Real Juve d'Europa. Questo non me lo sono mai dimenticato. Non eravamo né studenti, ammetterlo, ma i tifosi dell'Austria Vienna che protestavano contro il rigore che avevano avuto fuori area qualche settimana prima in Coppa dei Campioni. E un'altra cosa è la sportività che avete dichiarato. Vedete bene le facce durante la premiazione di Pioli, che andava a boffare che c'era il complotto, lui e il presidente. Vedete bene le reazioni della presidenza e dell'allenatore Pioli. Signor Pardo, lo faccia vedere in rallenti e legga il labiale. Nel momento Secondo me la lettura del labiale, la decriptazione della labiale è una delle cose che... Magari ci sarà stato. Io cerchiamo di prendere il senso complessivo della serata. Che poi il Pioli fosse arrabbiato ci sta pure. Torniamo Luciano da Napoli, abbiamo presentato Antonio da Milano e poi c'è Michele da Faenza e poi c'è Luigi da Castellammare. Chiamate 800 24 00 24. Tra poco, dica! Finisce qua, senza recupero il primo tempo. Gran spettacolo! Tutti convocati. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Radio 24 e il sole 24 ore aprono un'ulteriore finestra sul mondo dell'attualità economico-finanziaria nel primo editoriale multimediale di informazione, in onda da lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Radio 24. La passione si sente. Arrieccici. Tutti convocati. stiamo mettendo il record. Pardo ha cambiato la posizione. Ricordiamo il numero, è 824-0024. 800-24-0024. 824. No, perché sennò sembra 808. Ah, ok, giusto. Allora, 800-24-0024. Siamo a un passo dal record? Ma che dici, Luca? Siamo ad Autopromotech, 26esima biennale internazionale delle attrezzature dell'aftermarket automobilistico, in quel di Bologna. Io ho comprato dei freni a disco durante... Sto ancora aspettando il coprivolante di pelo. Ma sì, ma quella non me lo porta nessuno. Fatta la porta. È una vergogna. Enzo Ferrara, buongiorno. Pronto. Come va la SPAL? Come va? Come va? Insomma... Non tanto bene, non è riuscito. La squadra di mia nonna era. La squadra di mia nonna. Dica Salara. No, Salara. Di Bologna. Ha ragione, però sono a Bologna, sono contagiato dall'ambiente. Prego, prego, Enzo, prego. Ah, volevo fare una piccola domanda. Nel senso che quest'anno la Juve ha giocato benissimo e ha vinto tutto. Però mi chiedevo, come mai chi ha vinto 32, 33 scudetti e ha vinto solo due coppe dei campioni? È una domanda che non trova grandi risposte. La Juventus di finale, perché io so che lei vuol dire perché in Europa non ci sono gli arbitri che sono nel campionato italiano, però questo mi sembra un tema un po' prescritto. C'è una discussione simile in Grecia fra Olympiakos e Panathinaikos, chiaramente lì non è che ci sono le coppe vinte, però insomma Olympiakos ha vinto più scudetti, Panathinaikos va meglio in Europa, ma insomma no, io non credo sia un discorso di arbitri. Io credo che innanzitutto il calcio di regolarità sia diverso dal calcio di partita secca, sono proprio due sport diversi, e da questo punto di vista il famoso DNA della Juve, soldatini o non soldatini, sicuramente è molto adatto alla ripetizione. Scusa, posso ribaltarti la domanda? Perché il Milan, che vinceva tutto in Europa a ottobre, era già a 9 punti di distacco dalla prima in classifica? Bah, perché non era la squadra più forte che c'era, però era capace di fare grandissime. Aveva un DNA diverso, che metteva obiettivi diversi nel mirino. Appunto, il DNA è un famoso discorso, no? Da un lato ci può essere una ripetizione continua di prestazioni, quindi non mollare mai, essere continui nello sforzo, nella concentrazione, dall'altra invece c'è l'exploit episodico di grandi campioni che fanno alcune grandi partite, quindi sono due sport un po' diversi. Poi c'è il discorso anche che le coppe comunque sono nate a un certo punto della storia, e poi c'è anche il caso, perché poi la Juve comunque è vero che ha vinto soltanto due coppe dei campioni, ma è vero pure che ha perso delle finali anche delle volte in maniera molto sfortunata, quindi insomma non starei a ricavarne chissà quali conclusioni. La differenza fra una Champions vinta e una Champions persa può essere qualche centimetro, può essere un rigore sbagliato, una scarpa allacciata male, appunto. Antonio Milano, buongiorno. Buongiorno a tutti. Io volevo un pochino di colleghi gufi, un po' avviliti per questa Juventus, a cui facciamo i complimenti. Io da romanista mi congratulo con Allegri per aver fatto stancare la Lazio, sia moralmente che fisicamente. Però volevo avere un pensiero per gli amici gufi, di non mollare, perché se succede che in finale al 40° del secondo tempo sul 3-0 per il Barça vediamo fare il Torello e Vidal, Pogba a rincorrere come pazzi in mezzo al campo, quelli saranno 5 minuti nostri finalmente dopo un'annata di questo genere, perché il Barcellona li ha eliminati, i campioni di Francia, i campioni di Germania, i campioni inglesi, cioè la Juve ha eliminato le seconde linee di Francia, di Germania, che colpa, però che colpa, che colpa ne ha? Vabbè, ho capito, ma che colpa ne ha? Cioè il cammino può essere stato diverso, l'obiettivo è a questo punto lo stesso, quindi ci vuole anche la fortuna. La Juventus, l'abbiamo detto, di culo ne ha abbastanza quest'anno, ma serve anche quello per vincere. In questa telefonata c'è proprio la bellezza di questo gioco. Esatto, hai ragione Piero, c'è proprio tutto. C'è da dire che ci sono degli juventini che chiedono scusa ad Allegri anche via SMS, ricordiamo il numero che è 349 23 8 6666, 23 8 6 6 6 6, proprio non sono capace a leggere i numeri. Ma anche un milanista che chiede scusa ad Allegri, pensava mancasse l'allenatore, invece mancava la squadra e mancava la società, insomma. Questo Marco corretto. Dice perché la Juve ha tutti i trofei, perché ha perso diverse finali, perché non studiate, Marco? Siamo, ma se l'abbiamo appena detto, vabbè. Dai Marco, senti, io sto aspettando da un po' un confronto diretto tra te e un mio amico. Vai, andiamo a Monte Carlo. Io sono molto molto contento di come vanno le cose con Kimi, dell'entusiasmo che nonostante il suo soprannome Iceman ha riportato nella squadra. Quando sarà il momento ne parleremo col presidente e in un modo o nell'altro col suo, con la sua benedizione faremo un annuncio in un senso o nell'altro. Allora, questo era Maurizio arriva bene. Allora, noi siamo vicino a casa sua a Bologna, lui ha pensato bene di scappare a Monte Carlo, però io il confronto diretto, ha scritto un bellissimo libro di ciclismo, che si intitola Il Pirata e il Cowboy. Chi fa il pirata tra te e Pardo, Leo Turrini? Perché io voglio questo confronto diretto tra te e Pardo, io mi metto ad ascoltare. Come va? Intanto vi saluto con un affetto straordinario. Devo dirvi che a Monte Carlo non ci sono più le escort, che è un po' come Pardo senza Cassano, voglio dire, qualcosa. Che è venuto meno, però cedo subito con le notizie del traffico, perché vi ho sentito prima, c'era un elevatissimo dibattito. Allora volevo dirvi che sulla Ventimiglia Nista è fermo l'ultimo furgone Fiat Chrysler modello rododendro. Al volante c'è Antonio Conte e sul sedile accanto di guida c'è l'avvocato Montezemolo. È questo che ci vogliamo fare, è proprio il grande momento dei rosiconi, vedo che appunto state affrontando questo argomento il tema, e io vi sono affettuosamente vicino, state bene. Ma rosichi anche tu? No, io penso che il calcio in Italia, intanto avete sentito passare in questo momento una Red Bull, io penso che il calcio in Italia in questo momento è come la Formula 1, vincono sempre quelli, perché in Formula 1 vince la Mercedes e nel calcio vince la Juventus. Io sto sempre dalla parte di chi insegue, in questo caso la Ferrari. Avete fatto bene a far sentire la frase Iron Mauri, Mr. Rival, a proposito di Raikkonen, che resterà sicuramente la Ferrari anche l'anno prossimo. L'annuncio ufficiale sarà dato nel corso dell'estate direttamente da Marchionne. Direttamente da Marchionne, ci mancherebbe l'uomo col maglione, ci mancherebbe altro, sarebbe come se Allegri lasciasse la Juventus, Infatti chi mi ha comprato una dozzina di pullover, insomma, venendo l'annuncio della sua permanenza in futuro direttamente dalla bocca del successore dell'avvocato Montezemolo, è chiaro che il finlandese si deve adattare, no? Quindi basta giubbettini alla Fonsidori, poi solo dei maglioncini. Esatto, con grande adesione al progetto, diciamo, sartoriale del dottor Marchionne. Senti, dacci un buon motivo domenica pomeriggio per non addormentarci come fanno alcuni. Monte Carlo, per carità, Monte Carlo è stupendo. No, allora devo dire due cose. La prima, con tutto il rispetto per Pardo, che per me è il Vittorio Gassman della televisione della radio, però non è che tante partite di calcio siano poi più eccitanti di Gran Premio in Formula 1, perché io vi guardo, ragazzi, amici, a pagamento, non a pagamento, vedo degli spettacolini. Certe penniche, voglio raccomandare. No, allora Monte Carlo ha un fascino ovviamente unico, come dicono quelli bravi che hanno studiato per il contesto, hai capito, le ragazze in bikini sugli yacht, poi le macchine. Ma mai detto che le escort non ci sono più, volevo arrivare a dirvi che abbiamo perduto molto del contesto monegasco. D'altronde un tempo c'era Grace Kelly a premiare i piloti, adesso c'è figlio Alberto che sembra un pesce lesso. Io tra l'altro l'ho anche seguito in varie Olimpiadi cacciano il principato subito. Riusciva ti mandano a mentone. Riusciva persino a partecipare alle Olimpiadi come bobbista, cioè aveva fatto una federazione a Monte Carlo, tu pensa, di bob a due, lui era il secondo perché già guidare richiedeva un impegno particolare, faceva il fregatore e ha partecipato a dozzine di Olimpiadi invernali, una cosa pazzesca, applicando il motto del cubertiniano, che non è la vittoria l'importante come per noi interisti, che voi sapete. A proposito, un altro aggiornamento sul traffico, questa volta all'altezza dello svincolo di Como, dove era finita la benzina e non aveva i soldi per fare il pieno, tutti a dire compra questo, compra le aiature eccetera, ma poverino, ma voglio dire, rendetevi un po' conto, no? È una nemesi, c'è poco da fare. Leo, ci, senti, comunque, ci sentiamo lui. Dimmi. Gassman, sì, no, sì. Dimmi. La partenza, però, Pardo, non la perdere, perché c'è una strettoia di Santa Devota, no? Sì, dove lì sì, ci passa a malapena il furgone rododendro che sta guidando Conte con Montezemolo a fianco, e se Vettel fosse accanto a Hamilton lì al via, insomma, potrebbe anche succedere qualche cosa di meraviglioso. Di interessante. Senti, ma la curva dell'Eve che adesso credo sia diventata Fairmont, no? Sì, ha cambiato nome, è vero. Ha cambiato l'albergo. Di solito è il teatro di accrocchi meravigliosi, perché arrivano, devono proprio mettere, no, non la mettono più perché è tutto automatico, ma comunque la vettura scala in prima, quindi sai, queste forme di missili costretti ad andare in prima a fare una curva in discesa a 30 all'ora, cioè, ma c'è tutto un fascino particolare, insomma, un po' come a me piacciono come le piscine quando escono dal tunnel, pam, a me piace quel punto lì, come certe partite della Roma di Garcia, no, rallentatore, la curva dell'Urs è come la Roma di Garcia, del girone di ritorno, quella del girone di ritorno, quella tu la sai, quella dell'Isis, no, caro Pardo, siccome il mio Gassman, no? Quando uscirà quella... due mesi sì, fa, no? Sì, straordinario. Ma prego. Arriveremo a Roma e misero lo striscione in curva i tifosi giallorossi con scritto se arriva l'Isis a Roma al massimo pareggia, no? È così, noi della Ferrari speriamo di pareggiare a Monte Carlo. C'era anche il tweet, sì, ma dove state? Sbrigatevi perché alle 5 il raccordo si blocca e non si cammina più, quindi devo dire che grande ironia, grande romanità. Sì, sì. Leo, ci sentiamo lunedì con te. Ci sentiamo lunedì. Un grande abbraccio, non mangiate troppi tortellini via Bologna. Va bene. Faremo il possibile. Grazie Leo Turrini. Chi c'è in linea? Ci fai i trucchi, Luca. Antonino da provincia di Chieti. Antonino, ci fai i trucchi. Buon pomeriggio, come va? Devo ancora riprendermi da ieri sera perché sono laziale e ci avevo fatto un pensierino, sinceramente, quindi faccio ancora fatica. Comunque va bene, a parte questo aspettiamo il derby e volevo è la fare partita una... per cui avete lavorato, cioè per cui la Lazio ha lavorato per una stagione intera, ha detto Pioli. Speriamo, perché dopo ieri sera ho visto i giocatori un po', non lo so, vediamo, speriamo, dovrà fare un grande lavoro Pioli perché i giorni sono pochi e l'obiettivo è fondamentale, quindi a parte questo volevo fare una considerazione su Conte e Allegri. A mio giudizio Antonio Conte non deve avere nessun rimpianto, secondo me, perché anche se rimaneva la Juventus, secondo me non sarebbe arrivato in finale di Champions League, perché lui è un allenatore che ha la mentalità italiana per ora, e invece Allegri è un allenatore con la mentalità europea e sa il fatto suo, e infatti si è visto che subito con una squadra del genere è riuscita a portarla dove Conte non era riuscito in questi anni. Anche per Allegri è ovviamente il miglior risultato, euro risultato in carriera, quindi si sta costruendo comunque e si è costruito ormai un profilo da grande allenatore anche internazionale, profilo che evidentemente Conte ancora non possiede, ma ci arriverà. Facciamo un minuto di salto al Giro d'Italia perché siamo sfiorati noi a Bologna, loro sono partiti da Imola, adesso però vanno su verso Vicenza. Ciao. Zakarin, Russia, 25 anni, lui che aveva vinto secondo russo nella storia del Giro di Romandia dopo Pavel Tonkov, va a festeggiare sul traguardo della pista del circuito di Imola. Ma che pure i russi si mettono a vincere in volata, ma dai. Vicenza ovviamente ci fa pensare subito al baccalà, diciamolo istantaneamente. Mantecato strepitoso, mamma mia. Stagi stasera se lo mangia, eh. Stagi, ma io se faccio il Giro d'Italia quanti chili prendo secondo te? Ecco, cioè di fronte a questa domanda, questo interrogativo esistenziale. Questa era la risposta. Bene. Gianni da Bologna, Gianni Morandi. Buongiorno. Dove sei Gianni? Buongiorno a voi tutti e complimenti. Caro Paolo, dove sei? Non mangiare molte tagliatelle a Bologna, eh? No, no, guarda, riparto, allora, riparto subito. I tortellini no. E mai la gioia. No. Riparto su, ho mangiato un panino, mi ha portato De Luca, un panino, anzi ho mangiato. No. In realtà ho mangiato una, come si chiama? Una tigellina, sì, tigelline. No, prego, no, prego. Io da tifoso juventino, chiedo scusa. Allora, intanto volevo fare complimenti alla trasmissione e anche agli addetti centralisti, che il popolo, che nessuno mai fa i complimenti, ma sono gentilissimi. Sì, bravissimo. Cioè, Rosa? Rosa? Io vi facevo una domanda. Prego. Per domenica, Rosa e Nicola, non sarebbe bello se ci fosse uno striscione mega con scritto scusa Allegri? Sei uno di noi. E poi c'è un po' di effetto Larson. Sì. Sì, dovresti passare alla radio, credo, no? Comunque il concetto è chiarissimo. Ma sì, sai, chiedere scusa in realtà nella vita è una delle cose più nobili che possano succedere. Perché ma secondo te Allegri un po' non ci gode? Secondo me ci sta godendo. Ma sì, ma secondo me Allegri, guarda, conoscendolo un po', non gliene può fregare di meno. Secondo me di sentirsi dire scusa. Ha dimostrato di essere un grande allenatore, come qualcuno aveva anche detto quest'estate. Insomma, qualcuno sì, qualcuno no, qualcuno anche per prudenza, se volete, perché poi è chiaro che noi giornalisti spesso tendiamo a essere un po' così assolutori, no? Però Allegri l'aveva dimostrato nella sua carriera di essere comunque un allenatore interessante, con delle buone idee, sicuramente è capitato nella situazione giusta, nella congiunzione astrale giusta, però ci ha messo tanto del suo. Io credo che gli debba essere riconosciuto. Lo striscione, per carità, va benissimo. Se chiedere scusa, farlo, ripeto, è una delle cose più nobili che possano succedere. Allora, vediamo se c'è Stagi per un minuto, perché continua a cascare di qua di là. Pierluigi, ci sono. Ok, fantastico. Pier mi ha evocato Baccalà masticato ed è caduta la gente. Mamma mia, basta. Vabbè. Che succede oggi? Vince un altro russo, no? No, oggi speriamo che vinca un italiano dalla fede bianconera. E così festeggiamo ancora. Un Diego Ulissi. Anche se è un po' di raffreddore, questa mattina si è presentato con una bandierina della Juventus, però anche con un fazzoletto perché è un po' raffreddato e quindi ha dei problemi di respirazione, però ci pensa seriamente, perché è un traguardo che gli si addice. Si addice anche a Philippe Gilbert, che sta molto bene. E quindi questi i due favoriti, e poi scopriremo nei GR serali chi l'ha spuntata. Grazie a Pier Augusto Stagi, a Giorgio De Luca, Filippo Aureggia, Bologna tutta, ad Autopromotec, a Pierluigi Palma. Assolutamente, ricordiamo che Homo Faber, fortune sue. Ci sentiamo domani alle 2. Sì. Sono salto. Ciao, bacio ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao. Arrivederci ragazzi, ciao.